Sai che quello lì è il mio kazoo? Perché deve essere il tuo? Perché è il giallo, è il giallo. Sono tutti gialli, no, kazoo. No. Tutti i kazoo dello studio sono gialli. Non è vero. Come no? Ma ne ho anche uno arancione. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago, che ruba i kazoo. No, vabbè, voglio dire, i kazoo sono tutti uguali. Questo qui non ha nessuna scritta, non come c'è scritto no? K. C'è scritto Lady Gaga qua. Ma no, ma che Lady. A proposito, Lady Gaga adotterà 3 bambini. Vedi, che notizia, vedi. Hai visto? E uno dei 3 sarà Justin Bieber. Ma cosa dici? Sono 3 bambini indiani, forse dovrebbero. No, girano dei rumors che dicono che Lady Gaga adotterà Justin Bieber, che è minorenne. Ma il povero Justin Bieber, lascialo stare, minorenne. È già nei guai, minorenne, poi è già nei guai per la presunta paternità del bebè Tristan, avuto da una relazione con Mariah, l'abbiamo detto la scorsa volta, però adesso aspettiamo che facciano il test del DNA a Justin prima di trarre delle conclusioni affrettate, quindi lascialo stare lì, così, il povero Justin. Lady Gaga diventerebbe la nonna adottiva di Tristan. Sì, però prima bisogna aspettare il test del DNA, sì, il ma test, di sicuro capito? Risulterà che Tristan è figlio di Justin e quindi nipote di Lady Gaga. Continua la saga della famiglia Bieber. Dobbiamo fare la saga. Ma che saga, uno... dai. Qui una ciao saga nonna, che dura ancora 200 anni, perché questo qui ha 17 anni, voglio dire, noi saremo già morti e lui starà ancora sulle pagine dei rotocalchi. A 60 anni avrà una 30ina di figli. Tutti da Mariah. Tutti illegittimi. E sarà ancora l'idolo dei teenager. A 60 anni. Eh sì, come Vasco, no? Ah, perché Justin Bieber è il futuro Vasco. Ma se continua così, sì, no? Vai, Vasco. Justin. Tristan. Ma il diavolo è un po', secondo me in effetti è dentro, capito, di noi. Io non è che credo al diavolo, no, però credo che in effetti, ad esempio anche con la coca, è utilizzato dalla coca in effetti per, ma utilizzato per lavorare, sotto controllo tra l'altro di un medico. E ora bambini, ricreazione! Allora, bambino di 4 anni dimenticato sullo scuolabus, una brutta avventura che è avvenuta qualche settimana fa. A me è successo invece a un mio amico del liceo. C'è che beveva un po' e quindi il mattino dopo era finito sull'autobus alle 7 del mattino e all'asilo, fu portato a scuola, alle superiori, fu portato 40 chilometri nella città dove si andava a scuola. Ma tu andavi al liceo con lo scuolabus? 40 chilometri. Ma sicuro che non credevi fare il liceo, in realtà eri sempre all'asilo. All'asilo, ma certo. Poi comunque, a 18 anni ti hanno chiamato per fare il militare e non hai finito. Direttamente, dall'asilo al militare. Però succede, insomma, uno può anche sfinire, dimenticato su uno scuolabus. A 20 anni può succedere, sei ubriaco e ti svegli alle 5 del pomeriggio. Ma se hai 4 anni è un problema, o no? Mi piacerebbe. Ma cosa ti piacerebbe? Che mi dimenticassero sullo scuolabus. Vabbè, ma tu mica prendi lo scuolabus per venire all'asilo. No, ma mi piacerebbe. Almeno potrei correre il rischio anch'io di essere dimenticato. Sì, ma guarda che è un fatto gravissimo. Cioè, quel bambino lì, cos'è, napoletano? Ha rischiato di morire, Sì, ok. Però ho potuto dormire tutta la mattina, no? Ma quale dormire? Ha urlato e pianto per 4 ore, suonato il clacson. Perché è un dilettante, inesperto. Si è fatto prendere dal panico. La voglio vedere. Ma scusami, sei un bambino, sei sullo scuolabus. Lo sai che prima o poi qualcuno salirà sullo scuolabus per salvarti, no? Lo sai già, non vai nel panico. Ma lo sai già, però dov'è lo scuolabus? Vai là, andiamo, là, sì, portaci il bambino. Comunque tu sei l'unico bambino piccolo del mondo che di mattina invece di voler correre, giocare o guardare la TV così vuole dormire. Vabbè, ma io sono fatto così, adesso devo sentirmi in colpa. Adesso che hai detto la tua, tornatene in classe che non è nemmeno l'ora della ricreazione. No, un attimo, dai. Cosa c'è? No, io volevo pubblicizzare la recita di Natale. Sì. Magari con una canzoncina. Canzoncina. No, la canzoncina dai. No. Beh, ma so, dai, almeno fa un po' di tanto. Di la data almeno, però, pubblicizzare prima devi dire vedere. Data, ora. La data? Beh, 15 dicembre, no? Bravo, che giorno è? È un giovedì. Giovedì, bravo. A che ora? A che ora? Alle 21, no? Alle 21, dove? Alla sede di Radio 24. Sì. Che si trova in via Monterosa, a Milano. A Milano, numero? Il numero a piacere, nel senso che lì c'è Radio 24. Vabbè, dai, canta, va, canta sta canzoncina. Vai. Vai. Il bambino di Natale sotto l'albero per i regali. Ma cos'è? Questa è una che potrebbe essere che si potrebbe anche fare. Ma tutta a caso, tutta a caso. Ma stai improvvisando, tu? Cos'è? No, no, è sto cazzocino della tradizione. Ma che tradizione? Tradizione. Vabbè, allora cantane una, quella non la conoscevo. Il bambinone si alza e che fa? Ma così? Aspetta i regali. È nato Zan. Ma che tristezza. Papà. Ma che mamma. Perché? Perché sa già che Babbo Natale non esiste. Ma no, ma cantane un'altra, dai, ce ne saprai una bella. Qualcuno no? Allegra. Dai, faccio. Dai, va bene. Vai. La la la la la la la. C'è una cometa sul tetto dell'asilo che sfida. ora bambini, e tutti a casa. Marchionne. No, Marchionne detto, no, dai, c'ho anche il caffè. L'ho detto. Mi rovesci aspetta, il caffè. Aspetta. Già, in tangenziale. Lo spartitraffico, col caffè. Hanno messo la macchinetta in tangenziale sullo spartitraffico perché la gente a forza di aspettare almeno fa un po' di socialità. Bene, allora, va bene. Allora, hai visto la pubblicità nuova della 500? Sì, l'ho visto. Hai visto chi c'è come testimonials? C'è il culo. Sì. C'è il culo di Jennifer Lopez. Non c'è il culo, non si vede in macchina, quindi non si vede. Si vede. Hai visto che usare. Hai visto che Marchionne se. Hai visto che roba? Occhio, hai visto passano quali macchine. Una vai. Pop star globale come Jennifer Lopez per fare pubblicità, cioè Marchionne non va da spese, cioè ormai è arrivato lì la Chrysler Fiat. Non va da spese, ma chiude Termini Imerese, che fa anche un po'. Hai rima e tutto quanto. Quindi però... è la pubblicità col culo di Jennifer la pop Lopez. Star. Poteva risparmiarsela. Ma perché? Perché? Scusa. Perché invece di spendere i soldi lì fa su una fabbrica. A parte che insomma, sì, aiuta una fabbrica. Sembra quei discorsi demagogici, invece di pagare le armi, dati i soldi a quelli che ne hanno bisogno. Ma certo, lì sono compartimenti stagni, il marketing. Non buttare via la pasta che stai mangiando, la mettiamo da parte e la spediamo in Africa ai bambini che hanno fame. È quella la soluzione. Certo. Pasta muffita ai bambini africani. Vabbè, però tanto lui voleva fare in realtà una pubblicità con una pop star, ma non di pop commerciale. Lui in origine voleva una star del pop sinfonico, capito? Ah, ma chi? James Last. Ma quale James Last? Perché? Ma chi se lo ricorda poi? Lui non la metterà mai. James Last, tu te lo ricordi? Sì, io sì, però nessun altro. Ma è meglio guarda... James Last o Steven Slacks? Steven Slacks aveva la faccia più da quello dei Buggles con gli occhiali. Poi c'era anche Richard Clayderman. Clayderman, certo, biondino con il caschettino. Vabbè. Comunque, Marchionne non lo ammetterà mai ufficialmente, però lui è andato vicino a prendere Peter Gabriel come testimonial della 500. Ma Peter Gabriel, ma chi lo conosce? Ma molto meglio il culo. Jennifer Lopez. Sì, infatti l'hanno convinto che la Lopez era meglio, anche perché se usavano Peter Gabriel, poi dopo dovevano scrivere sotto che non era Giorgio Faletti. E nemmeno Paolo Coelho. Coelho. C'hai del caffè sul naso. Asilo, mandate le vostre mail, i vostri commenti, tanto non manda niente nessuno, perché dobbiamo fare sta roba? No, loro li mandano, noi non li leggiamo, quello è il problema. Ok, allora vabbè, continuate a farlo, chiedo asilo at radio24.it, risponderà Laura Fagin. Non era Jennifer Lopez questa, sì. Qui era la lambada. La lambada rifatta da Jennifer Lopez con Pitbull, il pezzo si chiamava Get on the Floor. E qui siamo sempre su Radio 24 con la Hit Parade.